Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Buonasera a tutti da Stefano Dainese, in un orario per me un po' inusuale, sono qui con voi per un appuntamento particolare. Abbiamo nei nostri studi un gruppo che è venuto a trovarci per presentare il loro nuovo album e naturalmente anche per suonarci qualche brano dal vivo. Come sapete, la nostra grande passione è avere musicisti qui con noi e poterli godere nella dimensione live, che naturalmente è un'emozione sempre diversa e più affascinante. La band si chiama Iola Urlo, sono giunti al terzo album che si intitola Meccanica e Natura, penso sia uscito da molto poco, comunque adesso ce lo diranno loro. Do la parola intanto a Marzia, che è la cantante, quindi è quella più abituata a parlare forse anche. Benvenuti. Ciao a tutti da Iola Urlo. Sì, questo vostro disco è uscito da quando esattamente? È uscito a novembre e abbiamo presentato in anteprima nazionale durante il Medimex, che è questa prima fiera delle musiche del Mediterraneo che si è tenuta in Puglia. È stata una bellissima circostanza dove appunto abbiamo presentato Meccanica e Natura. Non sapevo di questa manifestazione. Allora, hai detto Puglia, voi siete originari di quella regione, ma poi vivete un po' più vicino a Padova. Sì, ci siamo trasferiti nel 2001, siamo comunque nati in Puglia, i fondatori della band siamo io e Gianni, e dal 2001 poi ci siamo trasferiti a Bologna, quindi ogni volta che dobbiamo definire la nostra, diciamo, geolocalizzazione, diciamo che siamo una band emiliano-pugliese. Famoso Google Maps, sì, questo termine. Allora, io direi di ascoltarci intanto un brano dal vostro album. Il brano è quello che apre il disco, si intitola Polistirolo, e così anche i nostri ascoltatori si faranno un'idea del vostro suono, del vostro stile. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Come fa? Polistirolo era il titolo di questo brano degli Iola Urlo. Ho citato Marzia e Gianni, che sono quelli che suoneranno. Sarà anche interessante la differenza fra quello che sentiremo live e quello che c'è sul disco, che come avete sentito è molto arrangiato con anche molte sonorità elettroniche, mentre invece qui si presentano in veste francescana. Esatto, con una chitarra acustica e la voce di Marzia. Però è giusto citare naturalmente anche gli altri componenti della band, che sono Morris alle tastiere, Poppy alla chitarra e basso e French alla batteria. Poi Gianni, mi avevi detto che anche tu collabori alla parte, diciamo, sì, elettronica. Sì, sì, sì, collaboriamo insieme alla parte elettronica. Okay. Non so che altro dirti. Ecco, sentendo il disco, magari perché gli ascoltatori non lo sanno, la band sono abbastanza giovani, insomma, non sono proprio ragazzini, ma hanno ancora tanta strada davanti. Come sonorità, il disco a me ha ricordato molte cose degli anni 80, però immagino magari che il pubblico più giovane vi possa avvicinare di più ai Subsonica, per esempio, o altre band italiane, o forse anche a Baustelle per via della voce femminile. Non so, Iola Urlo sicuramente è una band particolare perché ha diverse influenze. Sicuramente questo disco rispetto ai precedenti ha una componente elettronica molto più spiccata dei due precedenti album, che invece fondevano sonorità più rock punk contaminate con addirittura dub in alcuni punti. Questo invece è un disco nato a circa 3 anni di distanza, dal secondo disco. In 4 anni ovviamente sono successe tante cose, parliamo immediatamente uscito nel 2007, mentre Meccanica e Natura è uscito appunto questo novembre. In 4 anni, poi in particolar modo questi 4 anni, è come se ne fossero passati 8 in qualche maniera, per la velocità delle cose che cambiano. Noi siamo cambiati, cioè noi stessi abbiamo subito dei cambiamenti, sia in termini di scrittura che probabilmente anche di ascolti, che avranno sicuramente influenzato gran parte della stesura di questi brani. Ci sono sicuramente gli anni 80 in tracce come Android, Chiaroscuro, però ci sono anche molti riferimenti all'elettronica anni 90, come per esempio il Caos e il Buio, dove ci sono a tratti momenti che toccano la drum and bass e suoni che richiamano anche la techno anni 90. Poi vabbè, sicuramente ci siamo lasciati influenzare da una scena italiana che Subsonica probabilmente inconsciamente, ma di sicuro la scena anni 90 che può in qualche maniera sfiorare esperienze musicali come quella dei 99 Posse, piuttosto Alma Megretta. Tra queste anche Subsonica, probabilmente sì, questo riferimento c'è. Però noi come band tendiamo ad ascoltare cose che sono europee o americane, in realtà. Ascoltiamo poca musica italiana. Diciamo, il riferimento di Subsonica mi è venuto perché chiaramente è una band che conoscono tutti, e quindi è molto più facile che qualcuno vi colleghi a questi nomi famosi che non magari a qualcuno a cui voi siete magari più vicini o devoti, ma che è conosciuto solo da un pubblico di nicchia. È una cosa che succede abbastanza frequentemente. E prima hai citato la canzone Android, e mi pare che sia anche quella che adesso ci suonerete dal vivo. Sì, nella sua veste intima. Intima. Allora, Android, sono gli Iola Urlo, qui dal vivo su Blu Radio Veneto. Buon ascolto. C'è una meccanica sentimentale, un meccanismo che ci cola e fa male. Io che non so cosa è giusto e cosa no, tu che non sai dirmi neanche chi sei. sei, io che non so cosa è giusto e cosa no, tu che non sai dirmi neanche chi sei, io che vorrei essere un androide prevedibile, programmabile. Io vorrei al posto del cuore un meccanismo elettrico che vada in cortocircuito. Oh, oh, c'è chi si è venduto l'anima per l'immortalità. Io vorrei cambiare il cuore con una scatola nera, nera, nera, nera come i tuoi occhi neri, neri, neri, nera, nera, nera, nera come i tuoi occhi neri, neri, neri. Io che vorrei essere programmabile, io vorrei al posto del cuore un meccanismo elettrico che vada in cortocircuito. Oh, oh, oh. Questa era Androide. Mentre ascoltavo il brano mi è venuto in mente una cosa, se a voi va bene cambiare la scaletta e far ascoltare subito ai nostri ascoltatori la versione del disco di questa canzone, così penso che possa dare un po' un'idea abbastanza chiara di come anche la band lavora in studio, perché immagino che la canzone fosse nata così, perché non poteva essere altrimenti, e poi ci avete fatto un po' di lavoro, che adesso ce l'ascoltiamo in questo lavoro, sentiamo il risultato finale, sempre Androide. Luna, Luna, Luna Radio Sera. Thank you. E qui erano al completo la band, diciamo, con la versione su, stavo per dire su vinile, pensate un po' quanto vecchio sono, su CD di Android. E, parlato con questa coda che mi sembra fatta apposta per tirarla un po' in lunga dal vivo, tiro a indovinare, ma è molto... Sì. Trascinante. Sì, dal vivo in verità è ancora più lunga. Cioè. Sì. Immaginavo, era una di quelle cose che non potete lasciar perdere, insomma, è troppo in tiro, diciamo. Sì, perché nonostante l'elettronica, comunque cerchiamo di portare il nostro live su un disco. Quindi sì, facciamo anche di queste scelte d'arrangiamento, cerchiamo di sembrare comunque una band che suona tutti insieme anche in studio. Sì, sì, che non sia uno con la tastierina a casa, sì, giustamente. Sì, che poi magari è così invece, però... Non si dice, no? No, si dice, siamo nel 2012. Che ha prodotto il disco? Avete un produttore esterno o fate tutto voi? Ma questo disco è stato prodotto dal pubblico, pensavo ormai lo sapeste. Sì, questa è una bella storia, questo disco, perché dopo il secondo album noi abbiamo passato un periodo di crisi, ci siamo fermati per un paio di anni. Quando abbiamo ricominciato a lavorare assieme e a decidere di fare un nuovo, appunto, un nuovo lavoro, la nostra etichetta che aveva precedentemente pubblicato i due album precedenti ha chiuso. Quindi, problema diffuso, purtroppo. Problema diffuso, sì. Peraltro un'etichetta di queste parti, parliamo della Tube Records, una nota etichetta indipendente che ha negli anni 90 fino ai primi 2000 ha spinto interessanti band del panorama indipendente punk. Però ci siamo ritrovati soli e a un certo punto la voglia comunque di pubblicare un nuovo disco era molto forte. L'unica realtà, entità che fino a quel momento non ci aveva mai abbandonato e sempre sostenuto era appunto il pubblico, quindi abbiamo fatto un progetto che si chiamava Se noi lo facciamo tu lo fai, che poi è stato anche premiato al May 2010 con il premio per l'innovazione musicale. Abbiamo praticamente creato queste 10 date in cui il pubblico, pagando il biglietto d'ingresso, partecipava attivamente alla produzione del disco. All'ingresso del botteghino venivano raccolti i loro nomi, che poi sono stati inseriti nel booklet del disco alla voce produttori. Abbiamo lanciato anche un pool sulla nostra pagina Facebook, dove abbiamo inserito una rosa di 10 nomi, eventuali titoli del disco. Abbiamo lasciato che il pubblico scegliesse anche il titolo del disco. Quindi è stato prodotto dal pubblico e, se vogliamo, anche collaborato alla parte un po' artistica, perché ha inciso comunque sulla scelta del titolo dell'album. Molto interessante, anche un ottimo sistema per sfruttare, diciamo, le possibilità che ci dà internet. E in America so che esistono due o tre siti in cui i musicisti addirittura vendono il CD prima di registrarlo, scrivendo appunto che quando avranno raggiunto la somma X, che adesso per fortuna è abbastanza bassa perché il disco si può fare con cifre molto contenute, poi naturalmente fanno anche la versione magari più di lusso per i supporter, quelli più sfegatati. Prima avevamo citato qualche riferimento musicale, ma mi era sfuggito il riferimento che c'è proprio nell'album, cioè la cover di Annarella dei CCCP. Sì, è vero. Sì, non ho citato i CCCP non volutamente, sapevo che ovviamente ne avremmo parlato. Sì, sono una band al quale noi siamo molto legati, sia professionalmente e sicuramente anche artisticamente, perché comunque sono vicini all'attitudine che noi abbiamo anche sul palco, perché per quanto questo disco sia molto prodotto a livello di suoni, però la nostra attitudine resta comunque molto istintiva, molto punk, e questo comunque dal vivo è assolutamente rappresentativo della nostra band. E i CCCP sono una band che comunque fanno parte di una scena punk che ha fuso anche negli anni 80 l'elettronica, ma in una maniera molto, se vogliamo, sì, lo fai, infatti, quindi sicuramente sia a livello di testi e di contenuti che anche a livello di approccio proprio alla musica, i CCCP sono una delle band al quale ci siamo ispirati. sì, non ho detto la cover è dal vivo. Sì. Giusto, con anche sì, il noi abbiamo che... registrato questa versione durante un concerto. Ci è piaciuta molto. Abbiamo pensato quindi poi di produrla e di inserirla nell'album. Quindi la traccia numero 11, se non sì, sbaglio. Sì, è quella che. Sì, è una versione l'album. Dal vivo di Annarella. È una bella scelta, ha fatto una canzone stupenda, veramente. E adesso ci ascoltiamo un altro estratto dall'album Meccanica e Natura, si tratta di Il Buio. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Lasciarmi andare al sapore di un bacio, ballare solo su qualcosa di solido. Vorrei essere come tutti quelli che galleggiano nel mare scuro delle notti, sentirmi un falco che cavalca il vento. Baciarti senza sentirmi puttana, vorrei parlarti dei sogni che voglio realizzare, tremare solo per qualcosa di autentico. Vorrei essere come tutti quelli che galleggiano nel mare scuro delle notti, sentirmi un falco che cavalca il vento. Sentirmi un gatto che attraversa il buio. Gli Iola Urlo dal loro album Meccanica e Natura qui su Blu Radio Veneto. Abbiamo la band in studio con noi e cerchiamo naturalmente di lasciargli il massimo spazio. Io quando però ho detto quando parlavo di produzione intendevo anche dal punto di vista artistico, cioè se vi siete lanciati da soli da quel punto di vista o avevate qualcuno di esterno? Beh, no, questo disco è nato, abbiamo voluto proprio fare anche un esperimento di autoproduzione artistica e la maggior parte delle tracce sono state arrangiate e prodotte artisticamente proprio da noi come band, in particolar modo da Gianni e da Mauro, che sono comunque i due producer più... io e Poppy coloriamo, noi siamo i colori, vabbè, poi io colorò con le parole, lei con i suoni. ma ci siamo affidati alla produzione artistica invece per due brani ad Ale Bavo, che è l'arrangiatore e coproduttore artistico di molti lavori dei Subsonica. Infatti per quello prima probabilmente il tuo riferimento era abbastanza mirato e pertinente. Il mastering ci abbiamo tenuto a farlo a Londra, in uno studio noto, l'Exchange Studio di Mike Marsh, che ha lavorato a band del calibro dei Prodigy, Chemical Brothers, Massive Attack, Portishead, una scena comunque elettronica che noi ovviamente dal quale siamo passati e che abbiamo attraversato nei nostri ascolti. Mm-hmm. Quindi questo serviva per avere questo suono bello pulito ma energico, corposo. Sì. La profondità delle percussioni, della ritmica, si sente che insomma c'è dietro un lavoro di un certo tipo, perché in passato molti musicisti italiani avevano dei problemi da questo punto di vista, devo dire, perché mancava proprio la competenza tecnica in molti casi, anche a livello di studi, quando non andare a Londra non era poi così facile. Ci sentivano dei dischi anche con dei contenuti belli, che però a livello di suoni, quando venivano comparati con quelli che arrivavano dall'estero, perdevano un po'. Ecco, invece adesso, nel vostro caso, ma anche di tante altre band che passano da noi, possiamo sentire veramente una capacità, un suono che se la può giocare con chiunque. A voi avete avuto qualche esperienza all'estero, qualche contatto? O... È una cosa sul quale stiamo lavorando. In realtà è uno di quei tasselli che mancano, l'esperienza di Io la Urlo, perché abbiamo aperto importantissimi concerti come Iggy Pop, Siouxsie, di cui parlavamo prima. Abbiamo suonato sul palco del Primo Maggio in Piazza San Giovanni a Roma. Siamo stati ospiti dell'Heineken Jamming Festival. Insomma, come band abbiamo fatto quasi tutto quello che in Italia si poteva fare per potersi in qualche maniera inserire in una scena musicale indipendente, però ecco, sicuramente in un'ottica professionale. Ma comunque è un percorso molto difficile, fatto di molti più ostacoli sicuramente che di facilità e di fortuna. L'estero resta ancora un po' un miraggio, nel senso che è l'unica cosa che non abbiamo fatto, quindi pensiamo che sia super figo. Poi magari non lo è, non lo so, però almeno ci resta questa idea. Quindi investiremo le nostre prossime energie in questo miraggio, che speriamo possa realizzarsi nell'arco dell'anno. Sicuramente l'estivo lo faremo ancora in tournée in Italia. Penso che settembre-ottobre lo dedicheremo a delle date fatte invece in Europa. Immagino che adesso il vostro scopo principale sia quello di suonare il più possibile dal vivo per far conoscere il disco, visto che è ancora fresco, diciamo, di stampa. E adesso potremmo ascoltare un altro brano dal vivo. Certo. Si intitola Sempre, ed è anche questo fa parte dell'album Meccanica e Natura. Sono sempre gli Io la Urlo qui dal vivo su Blu Radio Veneto. Sentire di avere bisogno di te mi fa sentire bene, mi fa sentire male. Sentirmi bene mi fa dimenticare di avere bisogno di te. Sentirmi male me lo ricorda sempre. Sentirmi male me lo ricorda sempre. Mi fa sentire bene, mi fa sentire male. Sentirmi bene mi fa dimenticare di avere bisogno di te. Sentirmi male me lo ricorda sempre. Sentirmi male me lo ricorda sempre. Thank you. questa era sempre. Notavo che avete sempre dei titoli cortissimi. È una scelta specifica o vi viene così? No, abbiamo dei titoli cortissimi perché in realtà nascono molto lunghi, poi dopo in sala prove diciamo sempre una sola parola e poi resta quello. Cioè, per esempio un brano si chiama il buio fa un po' paura perché non vorrei scendere mai nella cantina. Allora poi il batterista dice beh facciamo il buio, no? Perché non è che può dire sempre tutto lungo e poi resta il buio. Una specie di stenografia, quindi. Tu prima hai parlato della vostra partecipazione al concerto del 1° maggio, ma essere su un palco del genere, immagino vedi un mare di teste, come è stato? Beh, un po' di tremarella. Guarda, io ero talmente, diciamo, sbronza di emozioni, no? Perché ovviamente si parla di sensazioni adrenaliniche incredibili. Che non lo ricordo, cioè nel senso devo andare a vedere su YouTube per dire ah ma è successo, cioè è veramente forte come emozione, anche perché considera che il mio primo concerto proprio da ragazzina che ho preso il treno per andare è stato al 1° maggio, avevo 15 anni e sono andata in quel mare, ero il pubblico e quando guardavo quel palco sognavo e dicevo è lì che voglio essere un giorno e quindi quando poi è successo è stata un'emozione incredibile. Però anche. Siete riusciti a suonare normalmente, diciamo, senza... Sì. Normalmente anzi, non lo so. A dire il vero è stato, volendo, per quanto mi riguarda, più facile che suonare davanti a 3 persone in un locale in cui magari stanno guardando le tue mani e vedere se sbagli. Cioè, davanti a 600.000 persone, se tu vuoi far battere le mani, male che ti va, le battono in 200.000. Quindi un po' di rumore. È facile, in verità, secondo me. Non ci avevo pensato da questo punto di vista, perché anni fa parteciparono proprio i Baustelle e suonarono abbastanza male, e in particolare Bianconi non cantava tanto bene, ma gli fecero un primo piano e si vedeva chiaramente che stava tremando. Aveva proprio un tremolio, era evidentemente sopraffatto dalla situazione, per quello mi è venuto in mente. Dopo chiaramente ogni persona reagisce in maniera diversa, lui evidentemente è uno che va in skateboard giù per i dirupi e si butta. Per quanto mi riguarda è stato veramente più semplice di quello che pensavo. Prima di salire sul palco ero anch'io completamente fuori per l'emozione. Infatti mi sono chiesto come ci si può anche solo prendere un caffè, non dico drogare, prendere un caffè prima di salire su quel palco. Cioè, per me era impensabile proprio, perché tutto il corpo è proprio fatto di adrenalina pura. Immagino. Sono momenti che stavo per dire indimenticabili, ma qualcuno se li ha dimenticati. Sì, no, io me lo dimentico ogni volta. Va bene, ci ascoltiamo adesso un altro brano dall'album, si intitola Chiaro Scuro. Blu Radio Sera. Love. questo brano era chiaro, scuro, ben due parole, vi siete lasciati andare un po', e aveva queste sonorità, stavamo dicendo fuori onda, un po' all'orchestra Manoeuvres in the Dark, quasi l'uso delle tastiere, ma anche la voce un po' ricorda Susie Siux, che appunto mi confermi essere una tua grande fan. Ispirazione. Lei è una mia grande lei fan. Lei è una tua grande fan. Gli avrete dato il disco, immagino, quando l'avete conosciuto. Certo, certo. Firmato con tutti quei convenevoli che si fanno nei confronti dei grandi fan, che se lo meritano. Giustamente. Ma vista la vostra età, voi dischi... diciamo storici di Susie, ad esempio, o di altri personaggi che abbiamo citato, li avete ascoltati diciamo qualche anno dopo? Sì, non abbiamo vissuto l'onda. Ma come mai c'è questa vicinanza? Perché molte volte è difficile cogliere appieno il valore, l'importanza di un disco quando è passato del tempo, diciamo, dal momento dell'uscita, perché certi album restano comunque molto belli, però al momento dell'uscita avevano anche magari un'importanza diversa, nel senso che suonavano molto più innovativi, mentre poi magari sono stati copiati da tanti altri, per cui sono le sonorità che si hanno già in mente. Guarda, secondo me non è un caso che ciclicamente ogni ventennio alcune diciamo scene, mode ritornano. Io penso che io sono nata nell'82, quindi ho assorbito sicuramente tutto ciò che mio padre, mia madre, se avesse avuto mio fratello o mia sorella più grande, hanno ascoltato, no? Quindi poi 20 anni dopo, quando io ho preso la prima tastiera in mano, la prima chitarra, mi veniva quasi naturale riprodurre quello che a livello proprio di DNA musicale potevo aver assorbito nel tempo. Credo molto in questo. Poi c'è anche un fatto sicuramente di percorso di ognuno di noi, perché per esempio io e Gianni, quando abbiamo fondato comunque la band, siamo partiti con influenze che erano piuttosto lontane dall'electro wave anni 80. È stata Poppy poi l'ingresso suo che ha portato una ventata, diciamo, di influenze tenebre, dark in un certo senso, sì, rock wave. Siamo una band molto curiosa e ci piace tanto far convivere dei linguaggi molto diversi all'interno della nostra musica. Questo sicuramente ci ha dato una marcia in più in molti casi, in molti altri invece credo ci abbia un po' penalizzato, perché è sempre difficile poi collocare Io la urlo in una scena ben precisa. Soprattutto poi in Italia, dove invece le cose sono abbastanza nere o bianche, insomma, le parrocchie divise. C'è poco spazio per le sfumature, io trovo, quindi è un po' difficile, però siamo comunque contenti perché siamo veramente liberi di esprimerci come ci pare e piace, a prescindere da esigenze di mercato. Cambiando sonorità avete dovuto cambiare anche, diciamo, il giro di locali in cui esibirvi? Sempre. Questo non è... Sì, noi siamo stati, noi siamo stati invitati in festival reggae ska addirittura, perché il primo disco l'abbiamo fatto con Ibisca, c'erano all'interno delle tracce, c'erano influenze che avevano a che fare col dub, in alcuni casi anche proprio uno ska, un po' stile Madness, comunque, cioè parliamo sempre di sonorità, diciamo, made in UK, cioè non di certo lo ska giamaicano. Però il secondo disco invece era abbastanza influenzato da un altro tipo di atteggiamento, di mood musicale, più rock, infatti è stato registrato poi in analogico, in presa diretta, e allora a quel punto iniziavamo ad essere inseriti in una scena prettamente rock, quindi giro di locali diverso, festival diversi. Poi ora siamo usciti con questo disco elettronico totalmente, con 4-5 chitarre elettriche in tutto il disco, e ovviamente stiamo ricominciando tutto da capo, un po' ce la cerchiamo. Ci piace la vita facile. Ci piace, sì. Allora, La vita facile o banale, che è proprio il titolo del prossimo brano che andiamo ad ascoltarci ora. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Radio Sera. Blu Radio Sera. Ed eccoci qui, sempre con gli Iola Urlo nel nostro studio, qui con in carne ed ossa, diciamo, in voce e chitarra. E, visto quello che hai detto dei dischi precedenti, sicuramente dal vivo recupererete parecchi brani di quegli album. Li avete rimaneggiati pesantemente? Bella domanda, questa domanda vorrei che rispondesse Gianni. Che è scuola quando uno non è preparato. No, sono molto preparata, però... No, in verità è stato molto arduo far diventare i brani del primo disco, del secondo disco e anche quelli del terzo una cosa sola in tutto il concerto. Ci sono... La matrice punk comunque è quella che rimane fissa un po' per tutto il concerto, almeno l'attitudine. Però ci sono dei brani che fanno pensare alla, diciamo, alla felicità di, che poteva avere Manu Chao. O comunque i brani vengono, eseguiamo i brani tutti attaccati proprio come faceva Manu Chao, come fa lui. Però spesso suoniamo dei brani appunto come Il Buio, veramente molto scuri, e quindi è stato difficile comunque mettere insieme tutte queste sonorità e farle diventare il nostro sound. Però ci siamo riusciti, penso, spero. Sta anche al pubblico giudicarlo, esatto, venendo a vedere dal vivo. A questo proposito voglio ricordare che l'11 febbraio io e la Urlo saranno in Veneto, diciamo, nella nostra zona a Chiuppano. Quindi è un'occasione per goderseli dal vivo, per verificare anche il suono degli, se anche gli altri sono bravi come i due che stanno suonando qui da noi, ma non c'è dubbio naturalmente. Il prossimo brano che volevate suonare dal vivo si intitola In Movimento e mi dicevi che fa proprio parte del disco precedente. Sì, peraltro è la colonna sonora di un film che è uscito 2 anni fa, si chiama Due volte genitori. È un film che parla del coming out di ragazzi che esprimono la loro, il loro orientamento sessuale e del rapporto che hanno con i loro genitori in seguito all'espressione di questa scelta. Il brano è stato scelto ed è diventato poi appunto colonna sonora di questo film che ha girato per diversi circuiti cinematografici italiani indipendenti. E immagino che la versione che fate qua acustica sia diversa sia da quella del disco sia da quella del concerto. Esattamente. Magnifico. Allora ci ascoltiamo questa versione unplugged di In Movimento. Se volessi raccontarmi, non saprei da dove cominciare. Dalla fine sarebbe un paradosso, ma sempre più semplice che farlo dall'inizio. Ho già creato un microcosmo in miniatura, dove convivono pacifiche, meccanica e natura. E non esiste un genere sessuale. Svanisce il senso di quello che è normale. Oggi mi vedo come un quadro impressionista, impressionista. Sono l'essenza di ciò che appare a prima vista, a prima vista. Io sono come il plasma e io sono come il vento. Io sono come l'aria in continuo movimento. A volte credo nell'essere sinceri e penso proprio che di meglio non ci sia. Invece imparo che il mio mondo è un mondo strano che spesso premia la finzione e la bugia. A volte credo che siamo il risultato di ciò che gli altri per noi hanno desiderato e continuando per molto tempo ancora sarò me stessa se camminerò da sola. Oggi mi vedo come un quadro surrealista, surrealista, sempre diversa da ciò che appare a prima vista, a prima vista. Io sono come il plasma e io sono come il vento. Io sono come l'aria in continuo movimento. Vorrei che tu mi raccontassi dopo aver fatto l'amore siamo capaci d'essere bestie tanto quanto siamo conigli. Della pace i genitori, della guerra siamo i figli. Bellissimo testo, questa in movimento. Chi è che scrive le parole? Un lavoro. È Marzia, è Marzia. Lei è la secchione. E lei è la secchione. Come la secchione? No, insomma, di solito chi si occupa di queste cose viene considerato. È lei quella brava. È lei quella brava, sì. L'avevo identificata. Tempo fa intervistai gli Toys Orchestra e appunto mi dissero della difficoltà che c'era del fatto di abitare, loro abitano ad Agropoli, difficoltà appunto che avevano incontrato essendo così decentrati rispetto al mondo della musica, ma in Puglia negli ultimi anni poi è nata una bella scena musicale, perché credo che non sia più lontana come poteva essere una volta, perché in passato le band si trasferivano tutte quante a Milano di solito, dove poi si scioglievano perché non riuscivano a campare, perché la città era troppo costosa. Voi vi siete spostati a Bologna non per il lavoro della band, ma per ragioni di studio, mi passo di capire. Allora, intanto un passo indietro, perché Toys Orchestra si sono trasferiti a Bologna, quindi ecco. Un aggiornamento, vabbè. Sì, infatti mi avevano detto che per loro diventava un problema, non potevano passare la vita in treno fondamentalmente. Sì, ecco, macchina. Sicuramente l'Italia ha questa forma un po' allungata che non facilita proprio gli spostamenti, quindi diciamo che rispetto ad altre zone, se vuoi fare un tour nazionale ti devi munire di insomma pazienza e sapere che per quell'ora che sei sul palco ne devi passare almeno altre 8 in strada, quindi certe volte noi quando ci chiedono ma voi nella vita che fate, noi diciamo guidiamo, cioè, perché è il tempo che dedichiamo a fare gli spostamenti certe volte è superiore a quello che poi realmente è il lavoro di musicista sul palco. Vabbè. La Puglia, questa domanda che mi fai in realtà è un ritornello che in questo momento mi viene spesso appunto presentato, perché probabilmente tutto il lavoro che sta nascendo dietro alla comunicazione, alla promozione proprio della regione Puglia attraverso progetti culturali e musicali è frutto di una subcultura che era già presente molti anni prima, perché la scena musicale pugliese c'è sempre stata. Sicuramente molti dei nostri colleghi si sono spostati nella vita, ma perché secondo me nell'animo del musicista c'è il viaggio, cioè nel senso che la musica è fatta di musiche, di musica, di testi, di atmosfere che meritano di arricchirsi anche attraverso il confronto con altre culture, altri paesi, altre tradizioni, altre persone. Quindi sicuramente questa è una componente caratteristica dell'essere musicista. Poi però ci sono anche quel tipo di musicista che invece è radicato fortemente nella propria terra e sviluppa poi un tipo di musica che in qualche maniera risente molto della propria tradizione, come può essere per esempio, come possono essere realtà come magari i Sud Sound System, che sono salentini, cantano in dialetto salentino e la loro musica sicuramente riflette molto il territorio che loro vivono, no? Sì, sarebbe assurdo per loro andare a Milano. Sì, sarebbe assurdo e anche un po' snaturante, se questo termine esiste. Io quello che sento comunque di dire è che la realtà musicale pugliese è sempre stata viva, solo che in questo momento si avverte di più perché c'è proprio un progetto politico alle spalle che sta dando spazio e sostegno alla musica con finanziamenti, con opportunità che per la prima volta in Italia vengono dalle istituzioni e non dal basso. Questo ci tengo a dirlo perché noi come Io la Urlo abbiamo anche usufruito di questo, perché abbiamo vinto un concorso che si chiama Push Up, il premio era di 15.000 euro e solo comunque fondi statali, istituzionali, che vengono poi dai fondi comunitari europei e ci permetterà questo premio di effettuare appunto un tour all'estero, di intensificare la promozione e probabilmente anche di fare un nuovo videoclip. Certo, in Francia sono anni che il governo agisce in questa maniera, in maniera anche pesante, insomma, Invece in Inghilterra non c'è bisogno, perché hanno il sussidio di disoccupazione che ha mantenuto, certo, tutti i musicisti inglesi prima che diventassero famosi, perché le interviste sono tutte uguali. Campato 3 anni col sussidio e poi il primo disco ha venduto 1 milione di copie. Vabbè, ci ascoltiamo un altro estratto dall'album, che vi ricordo si intitola Meccanica e Natura, e il titolo è Cinema. Sono sempre gli Iola Urlo. Radio Sera. Blu Radio Sera. Allora, questa era Cinema, siamo giunti alla conclusione, siamo vicini alla conclusione di questo appuntamento con Blu Radio Sera, insieme agli Iola Urlo, che sono stati così gentili da fermarsi nel nostro studio per farci sentire la loro musica e raccontarci un po' di cose su di loro, sulla loro band, sulla loro vita. Magari speriamo di avere altre occasioni per ritrovarvi, magari la prossima volta possiamo provare a far suonare anche gli altri. Sì, un po' più di tempo per mettere in piedi le apparecchiature, si può fare. E vi ricordo appunto che il disco degli Iola Urlo si intitola Meccanica e Natura. Si può comprare anche sul vostro sito per caso? Sì, è disponibile ovviamente su iTunes, quindi in versione digitale. Poi anche c'è una landing page che noi abbiamo costruito dedicata all'acquisto della copia con spedizione. Poi ovviamente in tutti i centri Feltrinelli, Fnac è possibile ordinarlo, e ovviamente ai nostri concerti. Chiaramente, vi ricordo a Vicenza l'11 febbraio ci sarà anche il banchetto del merchandising. Ma io dico sempre, anche quando presento qualche disco, dico sempre: se volete comprarlo, cercate di comprarlo sul sito della band, perché insomma c'è un po' un piccolo, sì, vantaggio economico, sì, per i musicisti, certo, che mi pare giusto, insomma, se possibile, riconoscerli. Bene, io vi ringrazio di essere stati con noi, naturalmente è stato un grande piacere, complimenti. Chiudiamo questo appuntamento proprio con Annarella, visto che ne abbiamo parlato prima, un pezzo dei CCCP qui registrato dal vivo. Tu mi dicevi che i commenti sono molto estremi, diciamo, in un senso o nell'altro. E... sì, sì, beh, è un pezzo comunque molto importante della storia della New Wave italiana, quindi quando scomodi determinate pietre miliari della musica, rischi sempre, no, di essere o elogiato o... quindi vabbè, è un brano che ha spaccato molto il pubblico in questo. Però la cosa peggiore è l'indifferenza. Assolutamente sì, sempre. Quindi è molto meglio colpire l'immaginazione o i sentimenti delle persone in maniera efficace, perché è questo che, insomma, dovrebbe fare l'arte, no? Cioè lasciare un po', creare una reazione, perché sennò si fa musica da ascoltare in ascensore, come dicono gli elevator music, è proprio un modo di dire, non l'ho inventata io. E allora ci ascoltiamo questo brano, appunto questa versione di Annarella. Grazie a voi di essere stati con noi, grazie ai nostri ascoltatori naturalmente per seguirci. Grazie a voi, a ciao a tutti. Luna, Luna, Luna, Dio sera.